posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché sul suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia rancore. Poi con secchi di vernice onoriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori e può farti primavera. Costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Marguerite è buona, perché Marguerite è bella, perché Marguerite è dolce, perché Marguerite è vera, perché Marguerite ama e lo fa una notte intera, perché Marguerite è un sogno. Perché Margherita è sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male. Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Margherita è mia.